violenza donne, che lei e tutto il suo staff hanno messo già online tutti gli articoli di oggi e li potete trovare su zeroviolenzadonne.it, compresi alcuni di quelli che stiamo appunto commentando insieme ai microfoni questa mattina. E infatti questa è una rassegna stampa speciale a cura del martedì autogestito da femministe e lesbiche e Zero Violenza Donne per la giornata dell'8 marzo, in cui stiamo entrando nella storia e nel mito con una maratona di 24 ore. Adesso volevo ridere un po' con voi e leggervi un occhiello del primo piano dell'Unità, questione femminile e Chiesa Cattolica, un dialogo necessario. Sì. È un articolo della presidente. È troppo trash. Era la parentesi comica. Era la parentesi comica, perché mi hanno mandato un messaggio e mi hanno detto che questa rassegna stampa fa salire il veleno, tipo quando ti vedi presa diretta la domenica e ti rode per tutta la settimana. Ecco, mi hanno scritto questa cosa e allora volevo fare la parentesi comica. Oggi in programma nella parrocchia romana di San Saturnino una tavola rotonda per discutere del ruolo delle donne nel dopo concilio. Mamma, un passo paura. Incoraggiante dopo tanto silenzio. Beh, se volete andare a non so, volete andare a fare un po' di trolling, andate a fare i troll, andate lì e andate a disturbare questa tavola rotonda a San Saturnino. L'articolo, che non vi leggo, è della presidente Teologhe Italiane, e andiamo oltre a Roma. Sì. Visto che parliamo di Roma, intanto volevo ricordare a tutte le interessate che sono già state illuminate di rosa da questa notte la statua di Anita Garibaldi e Santa Caterina, quindi per chiunque fosse interessata a farsi una foto, sai, quelle foto turistiche da Santa Caterina rosa, vai. Ma mannaggia, ma magari prendetevi qualcosa pure, andate a fare le foto del rosa. Fucsia, no? Parliamo di ragazzi antimafia, questo è il commento sull'Unità, pagina 1, parte da pagina 1 di Carlo Lucarelli. Leggo un pezzo di questo articolo. Allora, sono importanti le donne anche nella mafia. La mafia lo sa e ne ha paura, perché quando succede che le donne si ribellano, la forza e la loro capacità di scardinare dall'interno quei valori, di rinnegarli e di combatterli, è enorme e dirompente, perché succede che una madre capisca all'improvviso che i figli faranno la stessa fine dei padri, assassini ammazzati, che non potranno fare la vita degli altri ragazzi, per esempio innamorarsi e sposare qualcuno che non sia di un'altra famiglia di 'ndrangheta. Succede che vede il figlio ricevere fino da bambino gli omaggi degli affiliati come i boss che necessariamente diventerà, e allora le donne, le madri e le sorelle si pentono, ma sul serio, e collaborano con la giustizia raccontando non solo i segreti e i fatti della mafia, ma anche lo spirito, gli umori e i costumi. Oppure succede che le donne, sempre le madri soprattutto, diventino loro stesse antimafia, punti di riferimento per intere generazioni, in grado di dare coraggio e forza, come la signora Felicia, la mamma di Peppino Impastato. Quindi questo era un passaggio del pezzo Ragazze Antimafia. E poi passiamo al manifesto, l'8 marzo degli uomini. A parlare sono Stefano Ciccone e Claudio Vedovati. Nel sommario, a voi le donne la festa, a noi maschi prendere la parola, finalmente per cambiarci tutti. E l'articolo attacca come l'insofferenza verso il politicamente corretto è divenuta alibi per dare sfogo al politicamente indecente. Oggi il rifiuto del rito dell'8 marzo nasconde anche l'insofferenza verso una domanda che mette in discussione il nostro modo di noi uomini di stare al mondo, le nostre tranquille categorie di lettura della realtà. L'8 marzo nella nostra memoria corrisponde alla sorpresa di non trovare la donna dove l'abbiamo collocata, anche una festa sì, una trasgressione dell'ordine delle cose, la scoperta di una libertà femminile, di una presenza delle donne nel mondo che ha cambiato la nostra vita e l'immagine di noi stessi, che ha messo fine allo sguardo universale e neutrale che avevamo interiorizzato come uomini, che ci ha posto un limite e fatto delle domande. Quindi questo è il pezzo di Stefano Ciccone e Claudio Vedovati, l'8 marzo degli uomini. Francesca, a te la parola. No, perché lo sai che sono cattiva, perché non hanno dormito questa mattina? Questo è il mio commento. E invece l'8 marzo si parla di lavoro, si parla di si parla di uomini che prendono la parola, di donne ragazze antimafia. E poi mi dispiace, infatti non le leggo perché non mi va di leggere, se non do tra poco un commento. Si parla male, si parla molto male dei femminicidi, che rimangono nei giornali, nelle cronache dei giornali, delle storie passionali finite in tragedia, drammi della gelosia e quant'altro. Invece non solamente l'8 marzo bisognerebbe parlare di femminicidi, ma bisognerebbe riappropriarci di questa cronaca e cominciare a raccontare, che a descriverla, a narrarla come una guerra degli uomini contro le donne, come qualcosa che avviene normalmente, perché nostra cultura la violenza degli uomini contro le donne. Quindi un articolo di Fabrizia Giuliani che vi vado a leggere, si intitola "Sopraffazione e abusi, non chiamateli amore". Però io vorrei anche dire a questi giornalisti: va bene, non chiamateli amore, però quando scrivete poi nella cronaca non dite che l'amava la follia o chissà cos'altro. Dietro la violenza, una gigante questione maschile, le donne scelgono, ma il mondo è pronto ad accogliere questa libertà? Fabrizia Giuliani. La cronaca inghiotta i loro nomi al ritmo quotidiana. Claire, Maria, Stefania, sappiamo poco o nulla. Ecco, a proposito di tutti questi nomi, siamo a quota, oggi è morta un'altra donna, quindi siamo a quota 37 femminicidi dall'inizio dell'anno. La storia è sempre uguale, una donna muore per mano di un uomo molto vicino a lei. È una ogni due giorni. Un ex marito, compagno, fidanzato, che non ha accettato la fine di una relazione, o un amico che non ha sopportato il rifiuto di cominciarne una. La tragedia non si ferma. Con quella donna muoiono altre persone, familiari, amici, o semplicemente qualcuno che passava di là. Non sono storie che fanno notizia. Un ordine intero tende a coprire responsabilità e complicità. Se una donna muore così, e non per mano di uno straniero, l'uomo nero su cui si batte l'ira della comunità, non c'è scandalo, non c'è notizia. Beh, mi viene da sottolineare, a me, facendo un commento, non a margine, proprio un commento che è fondante, che nel momento in cui è uno straniero si urla, si scrivono articoli, si fa la biografia di questa persona. Nel momento in cui in italiano al massimo si dice che era uno strano perché era disoccupato, non rientrava nell'ordine morale, oppure aveva un periodo che era drogato, passava un periodo di tristezza e depressione. Invece questa è la normalità. Non c'è, e si fanno delle cose, si fanno delle politiche solamente quando sono stranieri, si fanno le politiche sul corpo della donna, si utilizza il corpo della donna, gli stupri a piacimento di quello che vogliono che siano delle politiche che poi dopo non vengono a intaccare la nostra sicurezza e incolumità. Per comprendere il tabù sulla violenza basta accostare i dati degli omicidi agli altri numeri che descrivono la vita delle donne in Italia. Il lavoro che non c'è, i salari dispari, le donne assenti dove si decide. Ma soprattutto occorre vedere il nesso con la rappresentazione che si dà delle donne, della loro disponibilità, dei loro rapporti con gli uomini. La vita delle donne è cambiata la consapevolezza di sé e delle relazioni. Le donne scelgono, ma quanto il mondo è pronto ad accogliere questa libertà? Dietro la violenza c'è, al fondo, una gigantesca questione maschile ed è ora che la si veda, ma occorre interrogarsi anche su un nodo che tocca anche la libertà e la responsabilità femminile. Come crescono i figli maschi? Come acquisiscono la misura dei propri bisogni, delle proprie aspettative e dei propri desideri nella relazione con la madre? La vita delle donne è cambiata e il mondo non torna a girare al contrario. Le donne continueranno a scegliere. Non chiamano più amore la sopraffazione, l'umiliazione e l'abuso. Chiedono una storia nuova di coraggio e di libertà. È tempo di cominciarla. Certo, c'è da dire che per l'8 marzo fior fior di articoli su questo tema, che poi sostanzialmente nei media è trattato quotidianamente molto molto molto male, e sorvolando appunto su cose che ha già detto Valeria. Sì, una cosa che non troviamo nei giornali di oggi, ma troviamo in rete, è la bellissima lettera di Anna Maria Scarfò per l'8 marzo. Credo che sia uno dei più grandi regali che arriva per questo 8 marzo per tutte e per tutti noi. Anna Maria Scarfò, lo ricordo, è una ragazza calabrese ormai di 25 anni che a 13 anni cominciò a subire violenza in un piccolo paese appunto della Calabria, e subì violenza per 3 anni. prima da una persona, poi da un branco di ragazzi, ebbe il coraggio a 15 anni di denunciare tutto questo, perché aveva paura che la sorella poteva essere coinvolta, ovviamente anche lei, da violenze appunto inenarrabili come quella che aveva subito lei. Ha scritto questa meravigliosa lettera. Vi dico questo, appunto questo è un... vi dico questo, questa è Anna Maria Scarfò che parlo, perché vi voglio ricordare che la forza delle donne esiste, credete in voi, non abbiate mai paura di sfidare l'omertà, perché avrete sempre qualcuno che vi aiuterà. Eccomi di nuovo qui, sono Anna Maria Scarfò, la donna che continua a sopravvivere nonostante i suoi ostacoli. Oggi ho deciso di scrivervi nel giorno della festa della donna, avrei tanto voluto essere lì con voi, ma vivo in una posizione delicata. Questo lo ricordo io, perché Anna Maria Scarfò adesso è in un luogo protetto, e quindi, diciamo, dopo aver deciso di denunciare le violenze che aveva subito quando era ragazzina e aver avuto tutto il paese ovviamente che si è rivoltato non contro gli aggressori ma contro di lei, oggi per fortuna vive in un luogo sicuro. Continua una parte della sua lettera: oggi ci sono delle donne che festeggiano la festa della donna, invece c'è chi non la vive, non perché non vogliono viverla, ma perché ancora oggi ci sono donne che hanno dentro di sé qualcosa che le distrugge. Donna è una parola forte e bella, ma che troppe volte ci fa soffrire e fa paura. Fa male perché ancora oggi c'è chi non l'apprezza, ma la usa, la distrugge, non la fa sentire importante. Donne che diventano succubi degli uomini. Io, che come tutte le donne da piccola sognavo di diventare grande e avere una vita bellissima, sognavo il principe azzurro e credevo nell'amore e nei sogni. Sogni distrutti da chi? Da un uomo che alla tenera età di 13 anni mi ha ingannata con le sue parole. Passo alla chiusura della lettera di Anna Maria Scarfò, che però invito a leggere, la trovate in rete, su vari siti appunto di donne, vari siti femministi. E la lettera di Anna Maria Scarfò chiude: fate come me, che oggi sono viva e libera, anche se distrutta da tutto il male che mi hanno fatto, ma nello stesso tempo sono felice di avercela fatta a dire basta a tutto ciò che mi stava accadendo. Vi faccio tanti auguri a tutte voi, donne, insieme possiamo farcela. Questa è la chiusura della lettera di Anna Maria Scarfò, che veramente è veramente il più grande regalo che poteva fare oggi a tutte noi. Senti, ma chiudiamo con l'ultimo proprio. Non l'otto, solo l'otto. Martedì autogestito da femministe e lesbiche. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Vengo a ritrovare. Il venerdì poi è un giorno di passaggio. buongiorno a tutte le femministe e le lesbiche. Vi ricordo che siete in ascolto sugli 87.9 della maratona femminista e lesbica del martedì autogestito. Stiamo finendo la rassegna stampa quando sono le 9.16 del mattino. A Valeria non la fammo parlare. Il mio padrone che mi venga. Salutiamo le radio che ci mandano in streaming, che rimandano in streaming il nostro segnale: Radio Massa, Transizione di Fase, Blackout che fra un po' si collegherà alle 10.30. La che arriva, è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua, padrone della. Certo, anche Radio Onda d'Urto. Arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua, noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vada sull'ostia, la fabbrica, il padrone. Noi siamo della leggera e poco ce ne importa. Vada sull'ostia, la fabbrica, il padrone. Lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotta, lotto. Ed eccoci qua, eccoci qua. Ah, io volevo fare un commento di colore, perché da un giornale come La Repubblica. Giusto, non, il commento, cioè, di colore. Non ci si può aspettare nulla. Però è il giornale, probabilmente dopo il Corriere dello Sport, più venduto in Italia. E è vero questa cosa, dopo il Corriere dello Sport. È il più letto. È il più letto. È il più letto in Italia. Ecco, è il più letto in Italia. E poi ci sono. È il sito più cliccato in Italia. E mi mette veramente tristezza pensare che abbiano dedicato al giorno dell'8 marzo un'intervista alla moglie di Strauss-Kahn, comunque la moglie di uno stupratore e di un uomo che è coinvolto nella tratta di prostitute, e l'altro articolo dedicato alle donne si intitola, adesso ve lo dico e lo andiamo anche a leggere, In cucina uomo o donna. Allora, sono quattro pagine in cucina uomo o donna, e fa le differenze tra lui e lei in cucina, ovviamente con tutti gli stereotipi del caso. Lui, lei e il mangiare. Ah, questa è la tipica notizia spirito sì, di patata. Sì, sì. Sì, infatti, erano... Dal barbecue al bollito, un rapporto antico e complicato, in cui le differenze di sesso si riflettono in modi diversi di preparare e gustare i piatti. Fra protagonisti e ricette viaggia la scoperta del mondo che gira intorno ad una tavola, lui e lei. Ovviamente qua li pagano pure, e li pagano pure. Alle donne la necessità dell'alimentazione quotidiana, agli uomini il piacere della creatività una volta ogni tanto, o la gloria dell'alta ristorazione. Ah, ecco, diciamolo che appunto poi gli chef che finiscono nei grandi ristoranti, non si sa perché, sono tutti uomini. Poi tutte le donne del mondo cucinano, le nonne, zie, ne sappiamo. No, ma poi quelle che sono... quelle che sono in televisione, cioè, hanno tutte la cucina un po' così, quella che sta alla prova del cuoco, così, che sta proprio nonna, sono nonna Peppa, mentre gli altri sono alti chef, cioè, ci sta, o no, cioè, quando le vendono, ci sono le personalità in televisione, o c'è nonna Peppa, o c'è la casalinga molto organizzata, quella multitasking, che è Barba Brava, quella infatti che... Benedetta Parodi, che in 15 minuti lei ti organizza una fantastic primo secondo contorno e dolce, nel frattempo ha tre figli, una super carriera e un marito psicotropo. Esatto, come diceva quindi, Anna Finocchia, la tate e tre cuoche, non dimentichiamo il patrimonio economico di Benedetta Parodi. Dati di fatto, ma anche molti stereotipi, perché la diversità esiste e risale all'origine della storia umana. Non certo, è che è uno stereotipo tutto l'articolo, lo stereotipo sono i piatti, mannaggia. Ci sono i sapori da uomo e i sapori da donna. E dov'è che era quella del barbecue? Che anche il barbecue, le calze da uomo e le calze da donna. Il barbecue è virile da sempre. Carlo Magno odiava sentirsi sconsigliare l'arrosto, come non sapesse affrontare scorpacciate di cosciotti allo spiedo. Abbiamo scomodato anche Carlo Magno. Ma non non ho capito perché io su da qua, dall'altra parte dello studio, vedo due piatti. Uno è un appetitoso piatto di spaghetti, mi sembra con del pesto, un altro una zuppa tristissima di verdure. Immagino la zuppa di verdure sia l'alimento preferito della con le carote, il sale, mi mette una tristezza, quel brodino là giallino. Sì, sì. Comunque io sono bravissima col barbecue. Dai, Claudia. Siete all'ascolto della rassegna stampa, scusate questo momento, ma giustamente ci sono certi quotidiani italiani che vendono milioni di copie e vengono letti da milioni di persone che dicono milioni di cavolate quotidiane. E ora che sono le 9.22, che ormai dovreste esservi svegliate, ma anche no, chissà, questo non lo sappiamo, e vi mettiamo queste canzoncine un attimino un po' più movimentata. La rassegna stampa gestita dal martedì autogestito femministe e lesbiche si conclude qui. C'è anche la ospite speciale Monica Pepe di Zero Violenza. Grazie dell'ospitalità, è stato bellissimo. E potete andare a vedere tutte le notizie di oggi sul sito zeroviolenzadonne.it. Hanno aperto anche una finestrella con lo speciale 8 marzo di Radio Onda Rossa, e magari tra poco potrete scaricare la rassegna stampa sul loro sito. E vi invito comunque a consultare il sito di Zero Violenza Donna, che pubblica ogni giorno una rassegna stampa su pari opportunità, donne, genere, con editoriali molto interessanti. Diritti civili. Comunque sì. Il palinsesto finisce qui, arriva fino a mezzanotte. Stai davanti al cartellone. Tra pochissimo ti racconto una storia, la storia dell'8 marzo. Dalle 10 alle 10 e mezza invece l'agenda della giornata, che abbiamo un po' insieme cosa andremo a fare durante tutta la giornata. Dalle 10.30 alle 12 un redazionale dall'Aquila alla Valsusa, lo Stato arresta e stupra. Quindi a tra pochissimo a tutti e a tutti. From here, and maybe free boat down steer. If you catch me at the border, I'm democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So no funny business. Are you already are. Femministe e lesbiche di tutto il mondo, unite ai microfoni. 24 ore non stop, MFLA su Radio Onda Rossa. Lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotto, lotta, lotta, lotto. All'ascolto della maratona di 24 ore del martedì autogestita da femministe e lesbiche, è arrivata anche Daria ai microfoni. E sì, eccoci, vi do il benvenuto e il buongiorno, che sarà il 1392esimo della giornata. Ma ecco, magari qualcuno si sta alzando proprio ora. E quindi il mio buongiorno per lei o per lui è il primo. Ciao! Educated girl, give her hair a twirl, contemplate the meaning of a man with just one arm. Siamo in questo spazio che dalle 9.30 alle 10 porta sul palinsesto il titolo di Ti racconto una storia. Cerchiamo di... Francè? C'è troppo caos. Cerchiamo. Lo so che vi piace fare le foto, so, che la radio è tutta piena di mimosi attaccate da tutte quante parti, tutta... però noi vorremmo provare, eccoci. Cioè vogliamo un attimo di serietà e raccontare questa controversa storia dell'8 marzo, esistita veramente questa data, come è arrivata, come non è arrivata, era prima, era dopo, c'è chi dice che è un episodio del 25 marzo, chi no. Insomma, ti racconto una storia, eccoci qui per raccontare appunto la storia di questo 8 marzo. E che storia? Eh sì, perché sulla storia dell'8 marzo ci sono molte interpretazioni abbastanza poco storiche, soprattutto in Italia. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, sotto richiesta di una compagna che mi chiedeva di trovare esattamente il riferimento storico della questa famosa data che si sa, questo famoso evento che appunto è cultura diffusa nella sinistra, appunto dell'incendio della fabbrica Cotton avvenuto proprio l'8 marzo del 1908, in cui morirono 129 operaie, le quali, siccome erano in sciopero, erano state chiuse dentro la fabbrica e l'incendio fu appiccato dolosamente dal proprietario Mr. Johnson, che nello stesso tempo appunto bloccò le porte, insomma una grande tragedia. Queste donne, tantissime lavoratrici, morirono bruciate nel fuoco. Ecco, questa storia, esattamente così come ve l'ho appena detta, non esiste, non è vera. Ci sono tutta un'altra serie di verità storiche assolutamente provate, ma e che, voglio dire, confluiscono in questa storia, ma così come la sappiamo noi, come ce la raccontiamo, la sentiamo, come la troviamo in internet, su wiki, su tanti anche volantini dei compagni e compagne e così via, quella storia lì dell'incendio e delle lavoratrici che morirono l'8 marzo in sciopero, chiuse dentro nella fabbrica Cotton 1908, non esiste. Che cosa esiste? Che cosa è successo? E perché anche, nel senso che poi una delle riflessioni che allora qualche anno fa appunto ci siamo fatte, anche un po' sogghignando, è perché è stata appunto creata questa storia così ad uso e consumo della sinistra, e quando è comparsa in Italia. Sembra che sia comparsa intorno al dopoguerra, ma anche gli anni 60 forse, ed è una storia tutta interna al Partito Comunista Italiano, almeno, e all'Unione delle Donne Italiane, l'UDI, cioè sui loro testi per la prima volta troviamo questa storia. Ma andiamo intanto a vedere invece l'evoluzione, la genealogia della Giornata Internazionale della Donna, appunto l'8 marzo. Si hanno notizie, non di stampa, ma di racconti e di interviste, che già nel 1848, l'8 marzo a New York, fu proclamato uno sciopero delle lavoratrici dell'industria dell'abbigliamento, a cui presero parte 3.000 donne. E pare che sia stata la più grande manifestazione di donne mai organizzata negli Stati Uniti nell'Ottocento. Beh, lo possiamo immaginare. Quindi una prima data è quella del 1848. Poi c'è una seconda data che è il 1857. L'8 marzo centinaia di operaie tessili, sempre di New York, scioperano contro i bassi salari, il lungo orario di lavoro, lavoravano almeno 12-14 ore. Infatti le loro rivendicazioni erano per le 10 ore di lavoro, contro il lavoro minorile, lavoravano anche le bambine, ma dai 10-12 anni in su, contro ovviamente le inumane condizioni di lavoro. Lo sciopero fu represso con la forza e finì con un violento scontro con la polizia. E vabbè, immaginiamo. E quindi già nel 1800 ritroviamo ben due manifestazioni l'8 marzo, e lotta, non tragedia, ok? Già per mettere in chiaro la differenza da dove viene questa data, che non è appunto una data di poverine, queste donne che comunque anche se lottano e poi vengono ammazzate, no, sono storie di lotta, di manifestazioni. Pensa quanto cambia, si gira l'immaginario se invece di avere la data che ricorda una tragedia hai la data che ricorda delle lotte che magari appunto hanno avuto anche esiti positivi o non sono finite in tragedia, fortunatamente. È più difficile poi chiamare l'8 marzo festa della donna, no? Questa festa è un po' più difficile. Comunque, poi nel 1908, anzi no, nel 1907 viene fatto uno sciopero sempre negli Stati Uniti l'8 marzo, sempre uno sciopero misto uomini e donne, con la richiesta della giornata lavorativa, ecco qui, di 10 ore. L'anno successivo, 1908, l'8 marzo, 15.000 lavoratrici delle sartorie manifestano a New York chiedendo un orario di lavoro più corto, migliori paghe e il diritto al voto. Qui si inseriscono anche appunto le prime battaglie per il suffragio universale. 1909, le operaie tessili di New York. Allora no, il 28 febbraio del 1909 c'è la prima giornata nazionale delle donne negli Stati Uniti, per cui sempre vicino all'8 marzo, diciamo, quel periodo lì. Nel 1909, ecco, compare per la prima volta, compaiono come protagoniste le operaie in lotta della fabbrica tessile, la Triangle Sweet State Company, comunque una fabbrica tessile di New York, che cominciano uno sciopero scegliendo come data d'inizio proprio il giorno dell'8 marzo per ricordare le lotte del 1857, quindi comunque ecco, un filo della memoria loro ce l'avevano, migliore di quello che ci abbiamo noi. Ma siamo qui per questa mattina, per raccontarvi anche questa storia, così voi potete diffondere la vera storia, comunque una storia più veritiera sull'8 marzo. Lo sciopero, che dopo una violenta repressione della polizia, una serie di accordi, termina il 24 dicembre, quindi queste scioperano per mesi e mesi, con il, fra virgolette, protocollo di pace che riconosceva il diritto a regole per l'orario e il salario. Fino al 1913 la giornata viene celebrata l'ultima domenica del mese di febbraio, in modo da non perdere una giornata lavorativa, per cui comunque questo giorno di lotta e di ricorrenza appunto cade di domenica. Allora, questo siamo ancora nel 1909, quindi le lavoratrici della Triangle di New York scioperano. Nel 1910 ci spostiamo, passiamo in Europa, alla prima conferenza delle donne della Internazionale Socialista, che vede riunite 100 donne di 17 paesi, si riuniscono a Copenaghen. Carla Zetkin, che era leader socialista tedesca, direttrice del giornale abbastanza famoso Gleichheit, propone che di individuare una data come giornata internazionale delle donne, e in quel frangente propone proprio la data dell'8 marzo, però non viene ancora stabilito ciò, nel senso che diciamo che c'è questa idea di costruire. Nel 1911, il 19 marzo, 1 milione di donne manifestano in Europa, soprattutto in Svizzera, Austria, Danimarca e Germania, ma anche in altri paesi, chiedendo il diritto al voto, la fine delle discriminazioni sessuali per le cariche pubbliche, il diritto alla formazione professionale, temi ancora assolutamente attuali. Diciamo che quella viene considerata la prima giornata internazionale di lotta delle donne internazionale. Solo in Germania sono stati distribuiti per quell'occasione 1 milione di volantini che chiamavano le donne all'azione per il diritto di voto. Mazza, 1 milione. Un sacco, eh? 1 milione di volantini. Pensa poi a stamparli. Pensa quanto tempo Con hanno stampati messo. Di oggi. E, sempre la militanza. Grandi queste compagne. Sempre nel 1911... qui troviamo l'incendio in cui famoso in cui è vero che morirono tante operaie. L'incendio avviene il 25 marzo del 1911 nella stessa fabbrica in cui due anni prima le lavoratrici avevano scioperato, ma a distanza di due anni. Si tratta di 146 donne, per la maggioranza molto giovani, moltissime immigrate dall'Europa, moltissime italiane. È vero che le donne erano chiuse dentro la fabbrica, ma perché queste erano le metodologie di, diciamo, le condizioni di lavoro, cioè comunque c'erano i grossissimi controlli, le donne non potevano andare al bagno, non potevano allontanarsi dalla postazione di lavoro. Le poche che si sono salvate era perché erano appunto riuscite a eludere i controlli qualche minuto prima della fine dell'orario di lavoro e quindi erano riuscite a uscire prima, perché l'incendio appunto scoppia alla fine dell'orario di lavoro. Le terribili condizioni di lavoro sono la causa della morte di molte lavoratrici, erano chiuse a chiave nella loro fabbrica, vabbè, ve lo ho già detto questo. Nel 1914 ci sono manifestazioni l'8 marzo in tutta Europa. E poi vi voglio dare quest'ultima data, poi smetto di darvi date, è carina anche questa, 1917, vi dici qualcosa questa data? A te Claudia ti dici qualcosa? La rivoluzione russa. Esattamente. Allora, il 23 febbraio, che è l'8 marzo per il calendario russo, allora... Certo. La città di San Pietroburgo, che poi è stata rinominata Leningrado, adesso si chiama di nuovo San Petersburg, ci sono manifestazioni delle donne contro la guerra, manifestazioni note come Pane e Pace. Le donne invadono le piazze denunciando le condizioni di fame e la miseria che avevano sofferto negli ultimi anni. Per alcuni giorni le donne hanno dato luogo a grandi rassemblamenti in tutta la città. Rivolte per il cibo, per il pane, quindi scioperi e manifestazioni. La protesta è alla radice ed è riconosciuta come tale alla radice della rivoluzione di febbraio che condurrà all'abdicazione dello zar Nicola II e quindi è, diciamo, sono i primi giorni di mobilitazione l'8 marzo del 1917 che poi porteranno alla rivoluzione d'ottobre. Niente, sempre noi siamo le meglio. C'è poco da fare. Che devi fare? Poi dicono diversamente. Poi la cosa tremenda è che tutto ciò viene cancellato. Sempre, perennemente cancellato. Ma noi siamo qui per ricordarlo e ci ascoltiamo adesso, che sono le 9.46, una canzone che proprio è l'8 marzo. Ricordatevi di noi, siamo morte in una fabbrica. Sfruttate sul lavoro, sfruttate a casa e fuori. Ricordatevi di noi, siamo morte ma non per sempre. Noi vivremo eternamente finché durerà la lotta. Siamo state assassinate per aver... Contestualizzata nell'anno in cui è stata scritta questa canzone. Se non potete, scusate. Vendicarci col lottare, vendicarci col creare. Creare un mondo nuovo, un mondo di giustizia, un mondo di eguaglianza, un mondo di libertà. L'hanno presto incarcerata per avere militato, per avere contestato. L'hanno presto incarcerata in una cella isolata per paura che parlasse con chi vuol saper le cose. Mondo di libertà, saper di un mondo nuovo, mondo di giustizia, mondo di eguaglianza, mondo di libertà. Ventiquattro ore di diretta radiofonica. Entra anche tu nel mito. FLA su Radio Onda Rossa. E allora, questa che abbiamo sentito era la canzone 8 marzo, che si trova sul canzoniere del Movimento Femminista Romano, che è un disco di autrici multiple e varie, nel senso che molto carino il fatto che non ci siano i nomi delle autrici e quindi è di tutte noi, un po' datata, un po' tetra anche, scusate per l'orario, ma vabbè, era carino contestualizzarla con i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Adesso vi diamo il benvenuto alla nostra interlocutrice. Ciao, intanto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Siamo al telefono con Flaminia Graziadei, che è co-regista del documentario Tram Mob. Il documentario Tram Mob ci parla proprio, porta le voci, le testimonianze delle donne che sono sopravvissute dall'incendio della Triangle Factory avvenuto il 25 febbraio del 1911. Allora, ciao. Ciao. Rieccoci. Allora, intanto, che cos'è questo documentario? Raccontacelo un po', perché avete scelto di farlo, perché un... Guarda, innanzitutto, se mi permetti, mi riaggancio alla tua presentazione della canzone del canzoniere del Movimento Femminista, perché c'è una similitudine, cioè il fatto che noi in realtà abbiamo creato questo documentario, diciamo cortometraggio, più lo chiamerei, da un evento in cui, che abbiamo firmato come progetto collettivo, quindi senza diciamo attribuirci le varie competenze, quindi con una firma in ordine alfabetico collettiva, quindi c'è un aggancio già in questo. La cosa è nata dal fatto che l'anno scorso noi abbiamo fatto un evento per l'8 marzo su un tram, ovvero ci siamo interrogate su come cercare di riportare l'8 marzo a quello che era la sua valenza storica e politica soprattutto, e quindi cercare di allontanarci da scene mimose e quant'altro, e quindi abbiamo pensato di restituire le testimonianze del processo successivo all'incendio della Triangle di New York. Le abbiamo scaricate, si trovano su internet, le abbiamo tradotte in italiano, e cinque attrici le recitavano sul tram 8, che è il tram che va, diciamo, sulla tratta dalla stazione Trastevere a Piazza Argentina, avendo ovviamente creato, teatralizzato un pochino la cosa. Il tutto veniva accompagnato da un'installazione di fotografie che avevamo, che erano fotografie delle donne lavoratrici nel mondo e nell'epoca, e da alcune fotografie di repertorio che riguardavano l'incendio. E questo evento ha avuto una grande risonanza, è stata una cosa un po' particolare, abbiamo voluto portarlo noi sul territorio, in quanto appunto lavoratrici dello spettacolo, ma anche in quanto gesto politico, e da lì poi abbiamo separatamente girato un'altra parte per avere il lavoro pulito, e abbiamo montato il tutto con un risultato che, devo dire, fino adesso, insomma, è stato abbastanza, ha avuto abbastanza successo, ecco. Oggi sarà a Firenze il documentario, l'abbiamo presentato a Sulmona, a Firenze al Festival Internazionale delle Donne, insomma è stato un progetto, diciamo, che ci ha dato una grande soddisfazione, soprattutto questa, diciamo, è stata la seconda fase. La fase dell'evento è stata una cosa, direi, quasi commovente, perché le persone sull'autobus che non si aspettavano ovviamente, no, una cosa del genere, quindi si trovavano senza filtri, hanno avuto delle reazioni interessantissime, è tutto documentato, perché noi comunque salivamo con due telecamere, e c'è stata gente che ha pianto, c'è stata gente che ha detto finalmente ho capito, insomma è stato qualcosa che ha smosso un po' delle coscienze, almeno quelle che abbiamo incontrato in questo tragitto di 2-3 ore che continuavamo a fare salendo e scendendo dal tramotto. Bello, senti, che storie... Io l'ho visto, questo documentario, l'ho visto al Teatro Valle qualche mese fa, e anche a me era piaciuto molto, e appunto ho pensato che era giusto parlarne in questa nostra giornata radiofonica dell'8 marzo, anche perché c'è una attualità nelle storie che vengono raccontate, nelle testimonianze. Che storie raccontano, appunto? Che storie? Guarda, di che condizioni di lavoro sono? Sì, esatto. La, La Triangle usava prima di tutto imprenditoria minorile, con un altissimo livello di sfruttamento, quindi stiamo parlando veramente di 100 anni fa, e 100 anni dopo siamo esattamente nelle stesse condizioni. Le ragazze venivano perquisite all'uscita perché non portassero via anche solo dei piccoli pezzi di materiali, fibre. Proprio per questo, quando scoppiò l'incendio, loro erano chiuse dentro durante la giornata, quindi quando scoppiò l'incendio molte di loro rimasero, erano più di 150, e fra l'altro moltissime erano di origine italiana, rimasero intrappolate e morirono bruciate, o perché si lanciavano da questo palazzo che era già un grattacielo, per cui si lanciavano dalle finestre e ovviamente insomma schiantandosi al suolo. Quindi è una storia durissima che purtroppo ha un eco 100 anni dopo, esattamente della stessa portata nella situazione attuale che tutti conosciamo. Fra l'altro l'industria, cioè la fabbrica, non ha mai veramente dato un risarcimento. C'è stato un processo, insomma è stata una cosa che non ha mai nemmeno offerto, cioè hanno dovuto fare un processo e hanno cercato durante il processo di forzare, di manipolare le loro testimonianze. Questa è una delle cose che noi diciamo in una delle testimonianze che riportiamo, insomma. Quindi non c'è mai stato un vero risarcimento per la morte di 150 persone. Senti, questo lavoro l'avete fatto anche insieme a delle attrici. Chi sono le donne che hanno partecipato, collaborato con voi? Perché mi sembra di aver capito che è un progetto tutto di donne, e in cui c'è stato anche tutto di donne, con l'aiuto però di due di due operatori che sono stati con noi, che hanno seguito l'evento e che sono stati gli artefici delle riprese. Noi siamo un gruppo abbastanza eterogeneo, cioè abbiamo al nostro interno sceneggiatrici, registe, attrici, costumiste, scenografe e quant'altro. E in questo caso sì, alcune si sono mosse secondo le proprie competenze, altre invece si sono lanciate in altre cose, insomma. E le attrici, vuoi i nomi? Ma no, era così per sapere come lavorate insieme, se siete un gruppo, se siete delle donne che si incontrano nel mondo del lavoro. Questo era un po' di curiosità. Guarda, intorno a chi siete. Noi, ovvero MOD, il Movimento delle Lavoratrici dello Spettacolo, è nato in seno al Movimento Tutti a Casa per Italia, la cultura ed è nato intorno a settembre del 2011. Poi ci siamo trovate, abbiamo continuato su vari fronti, con le difficoltà oggettive che ci sono nel fatto che ovviamente, sai, è una presenza che è saltuaria, dipende un po' dal lavoro. Il nostro lavoro ci può portare anche fuori anche per svariati mesi, cioè le nostre vite non sono vite regolari, diciamo, no? Non sono rutinarie, e quindi voglio dire, con questo apporto c'è uno zoccolo duro che è rimasto e che è quello che tende ad essere un pochino più in contatto. Intorno a noi ruotano una serie di persone, abbiamo un sito, abbiamo una pagina su Facebook che ha, non so, 900 e qualcosa aderenti, e quindi insomma ci teniamo in contatto e ci muoviamo di volta in volta, più che altro sulla base di progetti che ci interessino e che abbiano un'impostazione cultural-politica che ci confà. Flaminia, senti, io chiuderei questa intervista a questo punto con un invito che vediamo e proviamo a realizzare nei prossimi martedì, visto che noi normalmente andiamo in onda il martedì dai microfoni di Radio Onda Rossa dalle 5 alle 11, un invito a portare, non so se l'audio del documentario o quant'altro ci vorrà vorremmo organizzare insieme, che dici? Molto volentieri, cercherò di procurarmi allora la parte audio, così almeno per avere un piccolo spaccato di quello che è stato il nostro, questo lavoro. Questo lavoro. Va bene, noi ti ringraziamo molto, buona giornata, buon 8 marzo di lotta. Grazie, ma lo sappiamo anche che a voi buon lavoro. Lottiamo tutto l'anno, a presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you tram mob, no. Tram mob. I have some food for thought. Volevo dire che sta, since knowledge is infinite, it has musica? Infinitely failed. Oppure no? So it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you. E allora abbiamo appena parlato con Flaminia Graziadei, co-regista del documentario Tram Mob, appunto una mobilitazione sul tram a Roma che racconta la storia dell'incendio al Triangle, come ci ha corretto giustamente Factory di New York, avvenuto nel 1911. Con questo io concluderei la storia dell'8 marzo, questa strana storia dell'8 marzo. Resta significativo comunque quanto ci sia di cattiva informazione, di ricostruzione storica menzognera, di tentativi di mistificazione. Quindi, appunto, secondo la storiografia ufficiale, fra virgolette, alla radice dell'8 marzo non c'è un giorno di lotta come quello del 1857 o quello del 1848, ma appunto una grande tragedia come l'incendio di una fabbrica. Appunto, si sa che le donne sono destinate a finir male se decidono di lottare, ma invece no. Picks my friends like a pick my fruit. Again, he told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be with a knight. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Please, amigos, I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree.